prima o poi ci tornerò. Sul letto di Charlotte 13 coccole te con King Crab, tazze e latte mamberla. Prima o poi ci ritornerò. Su quel letto di Charlotte le burrasche rosse della casa 139, la maglietta te la sfili apposta per lei. Ma lei non sa quanti pugni che peggio di una rissa dalle industrie. Lei non sa quante sberle ma rovesci di buio e notte. Vabbè, che poi notte sei te. Prima o poi ci tornerò sul letto di Charlotte. E ragni sul soffitto sono agili come te, viola e tigri electrofunk. E buonanotte fiorellino su tuoi cardigan nuvolosi di miliardi di corse neve. E se no, ma se lei non sa quanti pugni che peggio di una rissa al parco giochi. E lei non sa quante cartelle che ti spaccherai mica un polso. E non sai quanti calci in bocca che mi dai, lo sai. E prima o poi mi capirai, credo dopo domani. Tanto zucchero sui fiori del brunch, Marsiglia, fulmini e succo di mango, tinto di frittella, tutto il tramonto è 21, M gialle scintillano Charlotte, 2, 3, 4, un po' di nebbia sul cappotto e dalle colonne in San Lorenzo i punk stanno accendendo il fuoco. Sai che quando non sto con te mi si sentono le stelle nelle scarpe, amore, non mi fa più male la testa. E chissà quante volte baci in bocca di Land Dog Dog a succhiargli il dito losca in una pop porno rivista. E adesso con lui, ma dove te ne andrai? Non credo da Tanagra. Dopo Fiorucci, chi con lo specchio di Alice e le messaggerie, quanta fame che vi fa per il panzerotto di Luini. C'è troppa coda, si sa, facciamo un frullato da via. Quello è il corso Buenos Aires. E gli leccherai le labbra sporche di fragola e di panna. E ti leccherà le labbra sporche di fragola e di panna. Ma soprattutto sporche di te.